Di riposo a tutti quanti. E riprendiamo con inversione delle due relazioni, anche per la connessione che la relazione del professor Vanduska presenta col tema che è stato trattato stamattina della irredenta. E do appunto per questo la parola al professor Vanduska sul tema il movimento irredentistico in Italia e il suo riflesso in politica austriaca. Grazie, posso? Signore e signori, per le ragioni già esposte nella prima giornata, mi permetto di parlare in italiano, scusandomi di nuovo di tutti gli sbagli che farò, e dovrò anche ricominciare con un ringraziamento e con una scusa. Il ringraziamento va alla gentile dottoressa Sauer, che ha avuto la gentilezza di lasciare a me la precedenza, che è proprio contro ogni regola della cortesia, perché lei, come appartenente al gentil sesso, avrebbe il diritto alla precedenza, ma forse, data la mia vecchia età, in quel caso la vecchia era alla precedenza. Il secondo è la scusa perché non ho potuto, come avrei voluto, preparare una relazione ben documentata con materiale archivistico, e dunque la mia relazione sarà soltanto una serie di considerazioni o spunti o pensieri più o meno documentati, che però spero daranno occasione a una vivace discussione dopo la relazione molto più seria e documentata della dottoressa Saura. Inoltre, il titolo della mia relazione è un po' equivoco, e devo subito limitarlo anche per quello che riguarda il suo contenuto, cioè io non ho nessuna pretesa di parlare qui, di fare qui un quadro completo del movimento irredentistico in Italia. Sarebbe portare vasi a Samo davanti a voi, ai colleghi italiani che conoscono tanto meglio tutta la letteratura. Io conosco veramente il movimento irredentistico soltanto da alcune opere, sia italiane che austriache. Nomino per esempio l'irredentismo senza romanticismi di Mario Alberti per la parte italiana, o il libro già nominato stamattina di Michael Mayer sul italienischen Irredentismus. Dunque, il mio tema è piuttosto la reazione austriaca, o diciamo la super reazione, la reazione talvolta esagerata o addirittura isterica delle volte da parte austriaca in confronto al movimento irredentista italiano, e il tentativo di spiegare e di cercare di spiegare, di cercare di comprendere le ragioni di questa suscettibilità, che sono storiche, personali, secondo il mio avviso, ma anche questioni di principio, e che credo che non trovano una spiegazione, ma come sempre nella storia, una moltiplicità di un grande numero di spiegazioni. Questa è la premessa sul tema Allora io parlerò soltanto su questo problema della suscettibilità in un certo campo soltanto. Mi è venuto per esempio stamattina quando abbiamo parlato col amico Cervani del problema, adesso a tavola, del problema dell'introduzione del suffragio universale in Austria, in tutto l'impero austro-ungarico nel 1906. Mi è venuto in mente il fatto che nonostante che si è passato in quel momento, per varie ragioni che qui non posso esporre, dal principio liberale che il possesso e la cultura, il Besitz und Bildung, devono avere la voce più importante nella politica, al principio di un uomo e un voto, quello che i liberali sempre combattevano col famoso slogan che è inconcepibile che un capo industriale, che un grande insigne giurista, che un grande amministratore o professore universitario abbia lo stesso voto che il famoso Hutschenschleuder nel Prat, cioè un appartenente a quello che Marx chiamava il lumpenproletariat. Però in quel momento, quando si è introdotto questo stesso principio, si è fatto ancora una certa concessione al principio che quello che più paga tasse deve avere un pochino di più voce in capitolo nella circoscrizione dei collegi uninominali, cioè a vantaggio dei tedeschi e a svantaggio per esempio degli slavi, a vantaggio anche degli italiani in confronto degli sloveni, a vantaggio dei polacchi in confronto ai ruteni, eccetera. Allora in quel campo lì diciamo l'atteggiamento anti-irredentistico, diciamolo anti-italiano, non ha mica esistito, però in altri campi ha esistito. E vorrei arrivare a questo punto però facendo una piccola divagazione che forse in un primo momento a voi sembrerebbe che non c'entri niente nel mio tema, ma arriviamo subito al tema. Ed è, credo, uno dei compiti anche dei nostri incontri fra storici italiani e storici austriaci, quello di sfatare delle leggende che sono, come tutti sappiamo, molto lenti a morire e che delle volte dalla pubblica opinione e dalla propaganda entrano perfino anche nella letteratura scientifica e nel diciamo comune dominio di noi storici. Così come per esempio nei primi dei nostri incontri il compianto amico Jedlička ha parlato sul armistizio di Villa Giusti, cercando di sfatare anche tutto questo che è diffusissimo ancora adesso in Austria, l'idea che questo imbroglio, questa malcomprensione fra il 3 e il 4 novembre dell'armistizio sia stata una diabolica manovra degli italiani per catturare ancora il più grande numero di austriaci e spacciare poi questo tradimento come vittoria di Vittorio Veneto. Ora, questa è una leggenda in Austria perché in verità, come ha molto ben esposto Jedlička e come ha poi anche nella discussione aggiunto, secondo me, un momento molto importante il professor Englianosci, c'era una serie di ragioni che ha portato a questo malinteso, fra l'altro anche un atteggiamento, era proprio questo il contributo del professor Englianosci, una mossa umanitaria del barone von Waldstätten, se lei si ricorda, che ha detto ormai che la guerra è finita, l'idea che ancora della gente muoia per una formalità, perché questo armistizio comincia così, cominci solo dopo 24 ore, questo non ho mi è sembrato insopportabile. Ora, cercherò io adesso anche di sfatare una leggenda che è anche molto tenace di morire, a morire in Italia, che è la leggenda della proposta del generale Konrad von Hötzendorf, capo di Stato Maggiore austriaco, di attaccare l'Italia nel momento del grande, enorme, terribile disastro del terremoto di Messina. Perché ho trovato questo fatto come un fatto sicuro anche in lavori di storici seri e anche in discussione con storici seri. Allora ho cercato di chiarire che cosa c'è di vero e che cosa non c'è di vero in questa asserzione. Allora, la prima cosa, la grande diffusione di questa idea, a me pare che sia dovuta alla enorme diffusione di un libro di Daniele Varè, che era conosciutissimo negli anni 30, letto molto in Italia, ma anche in Austria, nel mondo germanico. Daniele Varè, che i giovani fra di voi forse non conoscono più perché è molto decaduto di moda, ma allora negli anni 30 era molto di moda, un diplomatico italiano, neanche di prima classe, ha avuto solo posti in Cina, allora ha descritto molto bene, un grande letterato, in un certo senso un abilissimo letterato, si può anche considerarlo un po' un antenato di tutti i tanti diplomatici italiani, dalla Penna Facile, da Quaroni, Ducci, Lucioli, non voglio fare altri nomi. Ogni modo, Daniele Varè, nel suo libro Der lachende Diplomat, in tedesco, credo in italiano, Il diplomatico sorridente, e io non sono stato in grado a trovare a Vienna, nella biblioteca, in questi pochi giorni, un esemplare italiano, solo l'esemplare tedesco, che curiosamente è stato tradotto dall'inglese, Laughing Diplomat. Io adesso non so se Varè l'abbia scritto, perché lui era di madre inglese, credo, che l'abbia scritto prima in inglese e poi sia stato tradotto in italiano, dall'italiano in inglese e dall'inglese in tedesco. Lui in questo, subito al principio, anche questo è importante perché molta gente legge i libri solo fino a un certo punto, subito a pagina 47 della edizione tedesca, nell'anno 1938, lui che era stato un giovane addetto all'ambasciata austriaca a Vienna negli anni di Ehrenthal, prima della Prima Guerra Mondiale, descrive un ricevimento nell'ambasciata italiana in onore del ministro degli esteri, barone Ehrenthal, e dice: in questo ricevimento c'erano presenti anche molti nemici di Ehrenthal, fra cui anche il generale Konrad. E lì scrive, scusate se cito in tedesco: Und wenn man ihm zusah, wie er liebenswürdig mit unserem Militärattaché San Marzano plauderte, hätte man es nicht für möglich gehalten, dass derselbe Mann beim Eintreffen der Nachricht vom Erdbeben zu Messina vorschlug, man sollte die Gelegenheit ausnützen, um jetzt Italien den Krieg zu erklären. Ein Vorwand wäre bald gefunden. E poi ancora pagina 68, Ehrenthals Kampf mit Konrad war lang und heftig. 1911, als Italien mit der Türkei Krieg führte, schlug Konrad vor, anzugreifen, genauso wie seinerzeit nach dem Erdbeben von Messina. Und diesmal wäre ein Vorwand leichter zu finden gewesen. Als er erkannte, dass seine Ansicht nicht durchdrang, ging er. Ora, è noto, ed è, certamente io sono l'ultimo, come i miei colleghi austriaci sanno, che ha del tenero per Konrad, tant'è vero che 14 anni fa, e lo potete leggere negli atti del congresso del Risorgimento qui a Trento, nella discussione dopo la relazione del generale Mondini, ho detto che il grande monumento che è stato eretto dagli allievi di Konrad un giorno dovrà essere ridimensionato dalla critica storica, e negli 14 anni che sono passati altri hanno ridimensionato questo. Ed è indubbio che Konrad era un nemico acerrimo. Io potrei raccontare anche degli aneddoti personali sentiti da mia madre per il suo forte anti-italianesimo, per dire, benché sua seconda moglie era di origine italiana. Qui abbiamo di nuovo il caso nominato qua. Però lui ha fatto parecchie volte, ha fatto delle proposte di guerra preventiva. Io cito qui dal libro di Lützow, sul quale parlo subito, è stato nei suoi Denkschriften del 6 aprile 1907, del 31 dicembre 1907, del 17 aprile 1908, e di nuovo in una lettera a Erntal, e questo è arrivato, si vede, fino a Varè, del 24 settembre 1911. Cioè lui certamente ha proposto una guerra preventiva in occasione della guerra libica, ma non ha proposto questa idea di fare un attacco durante o immediatamente dopo il terremoto di Messina. Però da dove viene questa cosa? Mi dà la traccia il ottimo libro dell'amico Fellner qui presente sulla Triplice Allianza, dove lui scrive: als in der großen Kammerdebatte über die Annexion von Bosnien-Herzegowina Anfang Dezember 1908 der italienische Abgeordnete Fortis erklärte, die einzige Macht, die Italien mit Krieg bedrohe, sei mit ihm verbündet, da konnte er gar nicht wissen, wie recht er mit dieser Behauptung hatte, denn schon in der ersten Besprechung der Annexion im Sommer 1908 hatte Generalstabschef Konrad von Hötzendorf im Ministerrat einen Krieg mit Italien als vom militärischen Standpunkt aus sogar beinahe wünschenswert bezeichnet. Und man kann nicht umhin, mit Bedauern festzustellen, dass die offiziöse Militärzeitung Österreichs, Danzers Armeezeitung, die Katastrophe des Erdbebens von Messina zum Anlass nahm, um einen Krieg gegen das dadurch geschwächte Italien zu fordern. E infatti la Danzas Armeezeitung del 7 gennaio 1909, cioè due settimane dopo la catastrofe di Messina, dice che adesso sarebbe stato il momento di attacco. Ma questa Armeezeitung, possiamo discutere sul fatto se veramente si può chiamarla ufficiosa o non ufficiosa. Questa Armeezeitung certamente non era il portavoce dello Stato Maggiore, era un giornale fatta da un uomo, figlio di un ufficiale che per un difetto fisico non ha potuto fare il servizio militare, e allora è diventato il ultra militarista e ha naturalmente ogni tanto anche portato questa idea di una guerra preventiva. Io ho fatto fare una tesi di laurea su questa armizia, su questo uomo, e da questa tesi di laurea risulta, e poi ho chiesto ancora quello che ha scritto un certo Johannes Bauer, che ha scritto questa tesi, se lui sa qualche cosa, e lui mi ha detto che ci sono delle lettere di Conrad dove lui dice: io non posso soffrire questo giornale. Naturalmente Conrad, che era un uomo che aveva la solita vanità comune a tutti gli uomini e agli uomini più ancora che alle donne, Conrad, quando fu lodato dalla Amezza, accettava di buon grado, ma non è concepibile che questo articolo del gennaio del 1909 sia veramente stata ispirata da Conrad. In quel senso veramente credo che Conrad era troppo ufficiale e soldato anche per ventilare soltanto una tale vigliaccheria di un attacco dopo questa ingente catastrofe, perché voi sapete che c'erano ancora molto più morti che non adesso nel terremoto del Friuli, eccetera. Ma questo terremoto di Messina mi porta poi veramente anche al problema dell'irredentismo. E qui mi baso sulle interessantissime memorie del conte Lützow im diplomatischen Dienst der K&K-Monarchie, che è stato scritto fra le due guerre, ma soltanto pubblicato a Vienna nel 1971. Quel conte Heinrich von Lützow era dal 1881 al 1886 addetto all'ambasciata di Roma e poi dopo servizio al ministero in una posizione molto importante, era ambasciatore austriaco presso il Quirinale dal 1904 fino al 1910, cioè proprio in quel periodo. Lui è poi stato richiamato anche perché troppo italofilo, non gli si è mai rinfacciato, ma Ehrenthal lo considerò troppo italofilo. E lui scrive: in occasione di quel Erdbeben von Messina, di quel terremoto di Messina, che le navi da guerra russe che erano nel Mediterraneo immediatamente sono venute a aiutare. Allora lui scrive poi: es schien naheliegend genug, dass auch wir uns durch Entsendung einiger Schiffe an der Hilfsaktion beteiligten. Aber meine wiederholten diesbezüglichen Anregungen fanden in Wien kein Gehör. Kommt der Lützow schon wieder mit seinen verfluchten Schinakeln? Schinakel è una parola dialettale viennese per Barche, Navi, eccetera. Kommt der Lützow schon wieder mit seinen verfluchten Schinakeln? Äußerte sich Baron Ehrenthal ärgerlich, als ich die Sache neuerdings urgierte. Der Grund zu dieser ablehnenden Haltung ist mir auch heute nicht klar. Ein Überfall auf unsere übrigens von Natur und Kunst ausgiebig geschützten Küsten war von keiner Seite zu erwarten. Siamo nel momento ancora degli strascici della crisi dell'annessione della Bosnia Erzegovina. Ja. Von keiner Seite zu erwarten und eine rasche, hilfsbereite Aktion im Dienste der Nächstenliebe hätte uns viele Sympathien gewonnen. Aber auch diese Gelegenheit wurde versäumt. Ich kann mir unsere ablehnende Haltung kaum anders erklären als durch die Besorgnis, unsere dalmatinischen Matrosen könnten zu warm aufgenommen werden. Cioè i nostri marinai dalmati fossero accolti troppo caldamente in Sicilia und könnten mit der italienischen Bevölkerung fraternisieren. Die Furcht vor dem Kokettieren der eigenen Staatsbürger mit dem Auslande war die konstante Sorge einer jeden österreichischen Regierung. Sie war der Wurm, der beständig an unserem Lebensnerv nagte und schließlich die Auflösung herbeiführte. Sie bezog sich in fast gleichem Maß auf Deutsche, Tschechen, Südslawen, Italiener und Rumänen. Mit Schamröte im Gesicht, col rossore in faccia, mussten wir Herrn Titoni bitten, als er im Jahre 1908 nach Österreich kam, seine Reiseroute zu ändern und nicht über Triest zu fahren. Questo mi sembra molto significativo, questo atteggiamento che quella costante paura di fraternizzare, di troppa simpatia dei sudditi, lo stesso è anche avvenuto in occasione, per esempio, della visita privata di Bismarck a Vienna in occasione del matrimonio di suo figlio con una contessa Hoyos, eccetera. Il Lützow inoltre scrive che la squadra italiana del Mediterraneo, quando riceveva l'avviso Messina distrutta, tornate subito, credeva che Messina fosse stata distrutta dalla flotta austriaca e veniva in stato di guerra con le luci spente verso Messina, e lui dice in questa occasione la parola Allier me pas ami era proprio giusta. E lui dice poi che il settantenne Conte Wilczek in verità ha poi salvato in un certo senso l'onore della umanità austriaca in quanto lui personalmente, nonostante i suoi 70 anni, è venuto con un treno di aiuti della Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft, la società di volontario di soccorso fondata da lui a Messina, e ha fatto molto. Inoltre, subito dopo il terremoto è avvenuto, per ricordarlo, il 28 dicembre 1908, e subito il giorno dopo Lützow, come risulta dagli atti del Staatsarchiv, ha proposto un dono personale dell'imperatore Francesco Giuseppe. E infatti il 29 lui, e Francesco Giuseppe già il 30 dicembre ha concesso la cospicua somma, allora cospicua somma, di 50.000 franchi fondo personale, di sua forza personale per i terremotati. Ed è curioso che questo fatto, forse nessuno lo sa in Italia, ma questa storia del Conrad che voleva subito intervenire che non è vero, almeno non si trova niente negli atti che lui l'abbia proposto. Deve essere veramente quell'articolo della Amitzeitung, poi altri, e poi diffuso dal libro di Daniele Varè. Ma però resta questo fatto, questa enorme paura di ogni atto irredentistico. E il libro di Lützow cita una serie di esempi, sia del suo primo soggiorno romano, quando per esempio nasce il problema, la morte di Garibaldi, il funerale passa sotto Palazzo Chigi, dobbiamo o non dobbiamo mettere fuori la nostra bandiera a mezz'asta come fanno gli altri, Garibaldi che era stato il nostro grande nemico, poi l'ambasciatore di allora decide, Garibaldi è stato un avversario nobile, gli rendiamo gli onori. E lo stesso si ripete poi nel 1911, un grande numero di telegrammi per la questione della partecipazione dell'Austria in occasione della mostra per il cinquantenario della fondazione dell'Unità d'Italia, della fondazione del Regno d'Italia, prima no, poi forse, poi sì. E in questa occasione il Marchese di San Giuliano ha detto anche a Luzzo: io non capisco come voi fate, quando noi domandiamo una cosa, voi dite al principio sempre no e poi dopo un po' cedete, e quando dite poi sì, lo fate con così mala grazia che in fondo anche questo cedimento non ha più nessun valore. Ed infatti era una di queste questioni che è stato specialmente rimproverato a Luzzo. Si trattava della cessione di Aquileia che lo ha rovinato, per modo di dire, presso i circoli anti-italiani in Austria. Tittoni aveva l'idea che l'Austria dovesse, per amore della triplice, per dare un po' più di forza alla triplice anche nell'opinione pubblica, che l'Austria dovesse cedere un pezzettino di terra dove c'era la cattedrale di Aquileia, quasi senza nessun suddito, eccetera, ma che aveva una certa importanza per la storia di Venezia, eccetera. Luzzo l'ha mandato in Austria. Solo questo fatto che lui abbia inoltrato l'idea che bisogna dare a questi maledetti Katzelmacher ancora regalare del territorio, questo gli è stato continuamente rimproverato, e lui diceva: cosa, capacità di fare un beau geste non è stato mai nel governo, mai del governo austriaco. Ci sono molti casi lo provano, e ancora, che io non voglio più dilungarmi, proprio in quel libro di Luzzo, e lui dice in un certo momento questo, e con ciò ha certamente ragione, questo è anche dovuto al fatto che la nostra politica estera doveva sempre essere una politica di prestigio. Non avevamo nessun interesse espansionistico, non avevamo un'altra possibilità, dato la complicata situazione della monarchia plurinazionale, di mantenere lo status quo. E c'è un altro problema, io direi quasi psicoanalitico, si può dire, che l'Austria e i dirigenti austriaci in quel periodo si sentivano un po' uno stato anormale. Come Francesco Giuseppe ha detto una volta, gli ultimi anni prima dell'ultima guerra, a un diplomatico straniero, e ce lo dice, ce lo ha tramandato Karl Jakob Burckhardt: ich bin mir seit langem bewusst, dass wir in der Welt von heute eine Anomalie darstellen. Io mi rendo conto da molto tempo che noi nel mondo odierno siamo una specie di anomalia. E questo è specialmente forte in quel periodo, anche intorno al 1908, anche tutta l'annessione della Bosnia-Herzegovina ha da fare con questo. L'Austria dopo il 70, in un mondo di stati nazionali, è un po' un'anomalia e vuole dimostrare di essere uno stato normale, uno stato che ha un certo un prestigio, che è forte, eccetera. E così arriviamo a questa supervalutazione anche di tutte quelle piccole cose, di questa reazione rabbiosa di tutti gli attacchi nella pubblica opinione italiana. E bisogna dire che in quel periodo l'irredentismo italiano ne ha saputo di continuamente punzecchiare l'Austria con tutti i monumenti e strade a Oberdan, eccetera, eccetera, che naturalmente era un po' sentito come insopportabile da un alleato. Ma io credo che qui, anche data la situazione specifica, la costruzione, se si vuole, antiquata dell'impero austro-ungarico, il fattore personale ha il suo valore ed è il fatto di Francesco Giuseppe. Qui arriviamo alla personalità di Francesco Giuseppe. Mi riferisco anche qui di nuovo al professor Englianoschi, alla sua introduzione del suo bel libro Geschichte am Ballhausplatz, dove lui cita questa uscita di rabbia di Francesco Giuseppe contro Conrad, dove dice: lei critica la politica estera dei miei ministri, ma questa è la politica che faccio io, perché la politica estera è la mia politica. E data la costruzione dell'Austria-Ungheria dopo il Ausgleich, dopo il compromesso ungarico, è vero che in verità le due cose che erano riservate ancora veramente interamente all'imperatore era la politica estera e la politica